La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Ripartono in questi minuti i lavori della Giunta per le elezioni, lavori che sono calendarizzati anche domani e dopodomani. Mercoledì sera si arriverà al voto sulle pregiudiziali illustrate dal relatore Augello del Popolo della Libertà e con molta probabilità le pregiudiziali saranno bocciate e si passerà quindi alla nomina di un nuovo relatore. Tecnicalità, insomma, che non fanno altro che allungare i tempi dei lavori della Giunta, che, lo ricordiamo, si dovrà esprimere sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Ma il parere della Giunta in ogni caso non sarà definitivo, tutto passerà infatti all'Aula del Senato e se ne dovrebbe parlare intorno alla metà di ottobre. Ed è qui al Senato che si giocherà la partita vera, con scenari che potrebbero cambiare a seconda che si voti con voto segreto, come prevede il regolamento, o con voto palese, come vorrebbero Movimento 5 Stelle, SEL, in parte il PD e l'UDC. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Partiamo allora proprio da voto segreto, voto palese. Ascoltiamo la posizione del Popolo della Libertà nelle parole, nell'ordine, di Gasparri e Quagliariello. Il regolamento del Senato è molto chiaro, così come lo sono i precedenti. Su un caso di decadenza il voto segreto è assolutamente la strada che si deve seguire. Se poi qualcuno ha paura di una libertà di espressione dei parlamentari, lo dica apertamente, ma non tollereremo interpretazioni arbitrarie o illegali di norme e regole che sono molto chiare. Vi pare possibile che si parli di cambiare i regolamenti ad personam solamente per decidere il caso Berlusconi, quando noi i regolamenti non li riusciamo a cambiare da 2 anni per evitare l'eccesso di decreti legge e per evitare che il Parlamento decida soltanto sui decreti legge? E questa dunque la posizione del Popolo della Libertà, lo abbiamo ascoltato prima Gasparri, poi Quagliariello. Netta la posizione del PDL nel dire no ad una modifica del regolamento che porti al voto palese. Quanto al futuro di Berlusconi, interviene sempre dal PDL il capogruppo Schifani al Senato, che ribadisce: decadenza o no, il Cavaliere non uscirà dalla scena politica. Sentiamo allora questo passaggio di Schifani dall'Annunziata. Su questo non vi sono dubbi, che non potrà tornare in Parlamento per la decadenza Severino o l'interdizione ex Cassazione, ma questo non significa che non possa continuare a far politica, essere il Presidente del nostro partito, il Presidente della Nuova Forza Italia. Nessuno di noi è preoccupato sull'agibilità politica futura di Silvio Berlusconi, né, conoscendo Silvio Berlusconi, ci poniamo la preoccupazione o la riflessione che lui possa fare un passo indietro. Nessun passo indietro, dice Schifani, da parte di Berlusconi, così come, quindi, sempre sentendo Schifani, gli uomini del Popolo della Libertà non sembrano avere dubbi: Berlusconi resterà in campo, non lascerà la guida del partito, questo indipendentemente dalla sua presenza o meno al Senato. Per il voto palese, lo abbiamo detto poc'anzi, si esprimerebbero PD ed UDC, ufficialmente invece hanno detto sì al voto palese Sinistra, Ecologia e Libertà e Movimento 5 Stelle. Grillo addirittura attacca e dice: il voto segreto su Berlusconi è un abominio. E tornando all'UDC, Casini auspica comunque che vi sia trasparenza al Senato, ma Casini si proietta in avanti e dice: il Cavaliere si dimetterà comunque prima del voto. Sentiamo questo passaggio di Casini sia sul governo Letta che su Berlusconi. Chi farà cadere Letta si assumerà davanti al Paese una responsabilità grandissima, e per quanto ci riguarda, con chi farà cadere Letta, noi non potremo avere nessun tipo di alleanza e di solidarietà politica. Su questo deve essere chiaro. Non si può liquidare la vicenda politica di Berlusconi come una storia criminale. Ha totalmente ragione sua figlia Barbara. Sono convinto che i falchi finiranno in gabbia e che Berlusconi farà un atto politico di grande responsabilità proprio per la storia di questo paese, del suo movimento politico e per la tutela della sua persona. Queste dunque le parole di Casini, che lo abbiamo sentito, si dice sicuro Berlusconi farà un passo indietro prima che il Senato si possa esprimere sulla sua decadenza. Interessante anche il passaggio di Casini in merito alle future alleanze di governo: non continueremmo ad affiancare, ad appoggiare chi dovesse far cadere il governo Letta. Stesso discorso ieri alla festa di Scelta Civica da parte dell'ex premier Mario Monti, che ha chiesto a PD e PDL un patto di legislatura, ovvero di mettere nero su bianco alcuni obiettivi, pena la decadenza dell'appoggio di Scelta Civica. Il PD, cosa fa il PD? Il PD guarda intanto all'Assemblea Nazionale di sabato, invita il PDL a senso di responsabilità e sentiamo cosa dice Epifani. Si facciano bene le scelte, perché la cosa che non potremmo tollerare è che si mettano soldi a difesa di chi ha e si tolgano soldi nei confronti di coloro che hanno bisogno. Siccome vedo arrivare una stretta finanziaria, bisogna che tutto il quadro sia messo di fronte alle forze politiche, al PD, al Paese, perché bisogna scegliere questa volta con attenzione e con equità. Su Staccalaspina se ne assume la responsabilità. Staccalaspina non al governo, Staccalaspina al Paese. Chi stacca la spina al governo stacca la spina al paese, dice Epifani. Leggiamo alcuni sms: 349-238-6666. Silvio, il 16 ottobre agli arresti, scrive Giuliano da Roma. Ed ancora Antonio da Como: ci stanno prendendo in giro, ci vuole una rivolta per mandare a casa questi buffoni. Schifani, quello vero, ma chiede un nostro ascoltatore, non capisco a cosa si riferisce in questo caso. Dicevamo del Partito Democratico, Epifani conferma la sua alleanza al governo Letta, ma Epifani sta subendo in questi giorni un vero e proprio pressing da parte di Renzi, che invece guarda già alle elezioni. Sentiamo allora il passaggio di Renzi, che è diventato un po' un tormentone delle ultime ore. Ascoltiamo. Loro sono al governo e pensavano di non tornarci, e se vanno alle elezioni, lasciami dire che io penso che stavolta noi non commetteremmo gli errori dell'altra volta, e che questa volta li asfalteremmo, e che quindi loro non vogliono andare alle elezioni. Loro hanno paura delle elezioni. Da rottamatore ad asfaltatore, secondo qualcuno, questo il futuro politico di Renzi. Per chiudere diamo spazio invece ad una formazione politica che non è presente in Parlamento, ma che fino ad un paio di anni fa era una stampella importante del centrosinistra. Parliamo dell'Italia dei Valori. Sabato c'è stato il ritorno di Di Pietro a Sansepolcro. Ascoltiamo allora Di Pietro. Capito la malattia, come vissi quel giorno, lo ricordo ancora, eravamo qui, se la stanno prendendo con i medici, ancora oggi è così, se la stanno prendendo con coloro che denunciano i mali del paese. E allora provate a riflettere, perché l'Italia dei Valori ha avuto successo nel momento della protesta, così come ha oggi successo nel momento della protesta il Movimento 5 Stelle, perché l'Italia dei Valori ha avuto insuccesso nel momento in cui è entrato nelle istituzioni, perché purtroppo anche noi abbiamo commesso degli errori, vale a dire non ci siamo accorti che dentro il nostro partito erano entrate delle persone anch'essi per farsi gli affari propri. Di questo voglio assumermi la responsabilità davanti a voi, voglio assumere la responsabilità davanti a voi. È stato, noi non è che ne abbiamo fatti molti di errori, ma di un paio di errori l'abbiamo fatto, uno riguardando appunto le persone, che non sempre abbiamo scelto nel modo più giusto, l'altro riguardante il difficile momento nel mettere insieme un partito di lotta e di governo. E così dunque Antonio Di Pietro a Sansepolcro. Per la politica alla prova per oggi è tutto. Un saluto da Vincenzo Miglietta.